È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Come dimenticare? Come dimenticare un personaggio diventato ormai mitologico, un personaggio entrato nella leggenda, il presidente della provincia di Napoli, Cesaro, il quale in maniera molto molto paracula, caro Parenzo, ed è una cosa per la quale incazzarsi come bestie, caro Parenzo, ha annunciato oggi le sue dimissioni attraverso tutto un sistema, la decadenza, con i consiglieri che rimangono in carica, eccetera, eccetera, che consentirà ai consiglieri di incassare una sorta di semivitalizio e a lui di candidarsi alle politiche, perché questo è il punto, altro che tutte le chiacchiere sulle province, sui poteri. Si vuole candidare alle politiche e dunque ha scovato un trucco il signor Polpetta. World Urban Forum. È da poche, qualche ora che Berlusconi ha dato il tic tac a noi, a tutta la regione Campania, ma non solo, ma a livello, tutto a livello nazionale. È il mitico Cesaro ha tirato fuori dal cilindro, caro Parenzo, un'altra diavoleria. Ufficio Ricatti, buonasera. Che c'entra Ufficio Ricatti? Ufficio Ricatti, buonasera, abbiamo pronti i dossier. Foto, Ricatti, Ufficio Ricatti. Ma con chi? Nei confronti di chi? No, Ricatti? In generale, questo ma è il nuovo sto ufficio, parlando di io sto parlando di Cesaro, di altri presidenti e di altri presidenti di provincia che oggi si dimettono con l'unico scopo, l'unico podestà obiettivo. Pure. No, podestà, perché non sei aggiornato? Podestà ha annunciato che si dimetteva con un Twitter sbagliato. Sono aggiornatissimo, lei tutte le agenzie. E poi ci ha ripensato, non si dimette più, questo non lo sai? Questo non ho visto. Ma scusa, di che stai parlando? Cioè, che mestiere fai? Il fattorino? No, adesso sono stato nominato presidente dell'ufficio Ricatti. Ma un'ora fa già, si è presentato davanti ai giornalisti 2 ore fa e non si è dimesso. Ma io avevo visto le agenzie fino a un'ora. Ma al diavolo, su, dai. Mannaggia. La russa. Poteva telefonarmi. Cioè. Aspetta, la russa, Minetti mi fa venire il voltastomaco, solo adesso, signor La Russa. No, non è possibile. Quando sento la Minetti che dice non c'è bisogno di essere molto preparati per fare politica, mi viene il voltastomaco, molto di più sulle altre cose della Minetti. Beh, in realtà non è che la Minetti in questo caso nel programma di Alessio Vinci ha detto una cosa così folle. Certo, ripeto, detto dalla Minetti suona un po' strano, però ha detto non è che il politico deve essere per forza uno specialista, no? Uno specialista. Non lo può dire la Minetti, diciamola chiaramente, non lo può dire. Dopodiché non ha detto una cosa folle e la Russa il voltastomaco se lo poteva far venire anche prima. Basta politica come la Minetti, ripeto, lo dice solo adesso. Ha detto non c'è bisogno di essere preparati per fare politica. Allora non c'è bisogno di passione, non c'è bisogno di militanza, non c'è bisogno di essere preparati. Se si immagina che la politica sia frutto di una cooptazione dall'alto, di una raccomandazione, si finisce con avere i guasti che questa politica sta producendo. Che stiamo vedendo. Io vorrei che un domani non fosse più così. La musica suona senza colori. Questa mattina Berlusconi da Belpietro, canale 5. Che mettiamo? Alleverò giovani politici. Questa cosa dell'allevare non mi piace, lo dico subito. Gli ha risposto anche un giovane del PDL molto in ascesa, il sindaco di Pavia Cattaneo, dicendo: insomma, i giovani si allevano da soli. Non è che c'è bisogno di qualcuno che allevi i giovani, ma che è? Cioè, sentiamo. Presidente, ma lei che cosa farà se farà questo passo indietro? Io posso tranquillamente lavorare ancora nell'ambito del movimento che ho creato sin dal 1994 per dare un supporto, per formare anche giovani nuovi, e io anche qui voglio dire che ho visto la rottamazione dei vecchi. Quella forza che ha solamente Vabbè, che c'è da mettere? Ah sì, Berlusconi che dice: mi rivolgo ai moderati. Sentite chi elenca tra i moderati. I moderati sono tutti coloro che non si riconoscono alla sinistra. Per citare i nomi dei leader o dei piccoli leader che scenderanno in campo, dall'UDC a Italia Futura di Montezemolo, a Vittorio Sgarbi, a Tremonti, sino alla Lega. Beh, la nuova coalizione di Berlusconi, UDC, Montezemolo, Sgarbi, Tremonti, Lega. Trovate quello meno moderato tra questi qua. Indovinate quello meno moderato. Va bene, abbiamo già un ospite, ma caro Parenzo. Va, che bene, c'è? va bene, è un modo di dire, dai, un modo per fare un passaggio tra una cosa e l'altra, ma non mi chiedere queste stupidaggini, modo dai, di dire su. Sbagliato, va bene, va che male. C'è? Devi che dire, c'è va da male. Mettere? Ancora la vicenda Renzi, gli attacchi, eccetera. Ma una battuta di Renzi su Berlusconi, Berlusconi sì, Berlusconi no, è peggio dello spread, sentiamo. Sì. Dall'altra parte ricandidassero Berlusconi, sarebbe da pagargli il biglietto, perché una campagna elettorale tra... Ma ha detto che non si... stasera Alfano ha fatto capire che non si ricandiderà. Sì, però scusi, ogni sì. giorno ce n'è una, è peggio che lo spread. Un giorno si candida, un giorno non si candida. E infine la Santanchè, che ha già annunciato la sua candidatura alle primarie, ma non è una novità, l'aveva già detto prima, poi si era tirata indietro, Berlusconi, sono un caos come al solito, Santanchè. Se Berlusconi fa un passo indietro a favore di questo progetto, noi faremo le primarie e chi crederà si candiderà. E certamente se le primarie ci sono, come io ho già detto, mi candiderò per esprimere qual è la linea e qual è il mio pensiero. Poi ha parlato anche di giardinetti. Berlusconi non andrà ai giardinetti. Va bene, ma c'è un nome che è spuntato fuori, caro Parenzo. Nome è spuntato fuori a sua insaputa, devo dire. Siamo tutti con lui. In questo caso a sua insaputa per davvero, cioè nel senso che credo non ci sia nulla di vero, credo, però indagheremo noi della Siamo Zanzara. Siamo con lui. Paolo Del Debbio, buonasera. Cari ragazzi, come state? Eccoci qui. Allora. Presidente, siamo con te. Meno male Del Debbio c'è. È una nuova canzone coniata da Parenzo, eh? Meno male che Del Debbio c'è. Parenzo è un uomo dalle mille risorse, eh? Paolo Del Debbio, in realtà, è stato uno dei fondatori, presentatore, certo. Docente. Successo di Quinta Colonna. Ieri sera un po' malino, ma insomma c'era Celentano, eh? Ma perché sei andato in onda lo stesso con Celentano, Adelde? Paolo, perché sei andato in onda lo stesso con Celentano? Non era meglio non andare in onda? Perché noi siamo per la guerra di posizione, come sempre, come quelli di Caporetto, di Risonso, non ci si leva dalla trincea, capisci? Ma non era meglio, dice, vabbè, no. Facciamo via per una volta, no? Vabbè, ma 1.200.000 persone li butta via. No, ma per carità, ma è debito, io ho sempre detto che... che corrono non ci butta via nulla. Ma no, contro Celentano, scusa. Ma no, ma infatti io non dico niente, io ho sempre usato parole molto dolci nei confronti di Quinta Colonna, by Del Debbio, molto dolci. Nonostante le critiche che ci sono state, perché dice una trasmissione dove c'è casino, si fa critica alle piazze, Caruso. Ottimo. Allora, però, Del Debbio, io dico una sola cosa: lei è stato uno dei fondatori di Forza Italia. Anzi, diamoci del tu sei stato uno dei fondatori di Forza Italia. Sì. Ma c'è del vero in questa cosa qua che scrivono che Berlusconi sta facendo un casting? Insomma, ci hai parlato con Berlusconi, sì o no? Tutta una bufala. No, francamente, no, non ne so nulla, non è vero e non mi interessa neanche, perché io sto bene a farmelo ora. Ah, così, non ti interessa? Sì, lo stai sfancolando. Che non fa per me, non so fare a fare quel lavoro lì. Vabbè, come no? Perché no? Ormai ti sei abituato alla televisione. Te lo immagini, te ora fai le campagne, no? E diventi leader, poi devi andare a parlare con Obama, al G8, al G20, ma mi viene da ridere, insomma, dai. Ma nemmeno il deputato faresti? No, quello peggio mi sento. Deputato no, meglio fa il presentatore, si guadagna un sacco di soldi, altro che deputato. Un sacco di soldi non mi pare eccessivo, insomma. Cioè si guadagna di più a fare il giornalista? Come? Si guadagna di più a fare televisione che a fare il deputato con quest'andazzo, o sbaglio? Ma io non lo so, nel senso che mi pare che guadagnano ancora benino, insomma. Però io sto bene dove sono, insomma, ecco. Niente politica, a nessun livello? No, io l'ho fatta volentieri quando all'inizio, e poi l'ho fatta volentieri con Albertini, la prima giunta Albertini. Sì, me lo ricordo, sì. Lì è stata una cosa bellissima, è stata un'esperienza meravigliosa. Però ormai basta. E ne sono uscito anche benino, perché dove magari poi la prossima volta mi va male, invece così mi è andata bene e mantengo quella. Ma sicuro che non c'è stata nessuna telefonata? Sicuro al 100%? No, non c'è stato nulla. Nulla di nulla. Non c'è stato nulla. Poi, visto la vostra riservatezza, ve lo direi se lo sapete. Però lo spirito guascone per fare il presidente del consiglio, o comunque il candidato post Berlusconi, ce l'ha. Questo non c'è dubbio. Meno male che la zanzara c'è, caro Cruciani. Questo non c'è dubbio, anche se qualcuno vorrebbe schiacciarla. Anche se qualcuno vorrebbe schiacciarla. No, ma siete forti, siete zanzare africane. Proprio. Senta, sì, ma non si è pentito di quelle risatine in studio per la vicenda Fiorito, da cui poi la telefonata della mamma di Fiorito anche qui alla Zanzara, una polemica infinita? Si è un tantinello pentito o no? Ma insomma, la risatina mi è scappata, ma voglio dire, però era benevola, non era mica... Io Fiorito l'ho trattato bene, è stato da me 2 ore e 40 in trasmissione, insomma, eccetera. Allora lì poi mi ha detto, perché tutto è venuto fuori, che la D'Urso mi ha chiesto, ma com'è quella personalità? E io dico, è molto sfaccettata, no? Sì, e sì. Poi siccome è uno grosso, lei fa, ma quanto sfaccettata? E dico, molto sfaccettata, insomma, ecco, è stato così, tutto lì, ecco. Ecco, beh, detto... era andato in carcere lo stesso giorno, eh. Io non voglio dare lezioni a nessuno. Si poteva evitarlo. C'era qualcosa che si poteva evitare, cioè le risate sulla dimensione fisica, insomma, sul corpo. Sì, sono cose da evitare. Vogliamo chiedere scusa alla mamma di Fiorito, che si è arrabbiata moltissimo, ho già fatto. Ma lo faccio volentieri, assolutamente volentieri. Dunque, chiediamo scusa alla mamma di Fiorito perché se c'è stata un'offesa in queste risate. Era una cosa che si poteva tranquillamente evitare, non c'era nessun bisogno, quindi quando ci si può evitare, evitando mesto, evitiamo. Non l'ha sentita, poi non le ha fatto una telefonata, no? Vabbè, lo facciamo attraverso la zanzara. Che problema? Lo dica a lei, Cruciano. Io lo dico io. Ah, ma sì, adesso ce l'ha pure con me, figuriamoci. Ce l'ha con tutte. Allora glielo dica. Lo faccia dire da Parenzo, che è una personcina moderata. A Taormina lo faccio dire. Se non ha litigato... Se non ha litigato già con Taormina. Traffico, torniamo. No, io non ci ho litigato. No, lei, la mamma di Fiorito. Ah, questo non lo so. È probabile, però, col passare del tempo. 18:46, torniamo subito con Paolo Del Debbio, presentatore di Quinta Colonna su Rete 4, professore universitario, fondatore di Forza Italia, Fatto Politico. Qualcuno dice sulla stampa, Ugo Magri, che è informatissimo, però, tra l'altro, dice, insomma, nella rosa dei successori spunta di ipotesi Del Debbio, lui smentisce proprio totalmente. Eccoci, a grande richiesta qualcuno vuole risentire non solo Angelo, il camionista da Bari, protagonista delle ultime puntate, caro Parenzo, soprattutto negli attacchi nei tuoi confronti, ma anche la frase di Berlusconi sui moderati, Berlusconi di quel camionista rompi balle, perché poi c'è un camionista invece ma è numero uno, perché rompi balle? Perché è un villano nel senso etimologico del termine proprio. Allora, abbiamo con noi Paolo Del Debbio, il grande, è qui. Perché? Ma perché devi sempre lisciare il pelo alle persone? Fa una non lo capisco. Importante, bella. Vabbè, ma l'abbiamo già detto che la seguiamo, che ci piace. Perché a noi ci piace il sangue, soprattutto. Ci non piace il sangue. Mi dica la verità, De Debbio: la cifra della sua trasmissione, della tua trasmissione, è il sangue. Ecco. Il sangue, deve scorrere sangue. Io sarei quindi la vena, insomma. Un po' sì. No, il sangue ora mi pare eccessivo, però insomma che la trasmissione, diciamo, è la piazza, che è un po'... Quella è la vena, insomma. Nessuno ha mai sputato. Visto, mi hanno detto ancora. Di tutti i colori, che le mie piazze sono preparate, ho visto sull'Unità, sì. Altri hanno detto le piazze di Santoro andavano bene, quelle di Del Debbio non vanno bene, vabbè, e poi hanno detto che sono piazze... dalle quali non si impara niente perché non sono tematiche, chi se ne frega, ognuno certo. Può dire quello che vuole, insomma l'ha detto di tutti i colori. Si può rispondere con un chi se ne frega a tutte queste cose? O no? Ma chi se ne frega non si risponde mai, insomma, magari si ascolta, però siccome io sono tranquillo perché sono piazze di preparato, lì non c'è nulla, nel senso che viene fatta lì per lì, quel che viene naturalmente ci provo. Ma c'è un po' l'obiettivo, c'è un po' l'obiettivo di, no, di far vedere il malcontento del paese nei confronti del governo, delle tasse. Qualcuno parla di un obiettivo. È questo. Allora io no, populismo, non populismo. No, ma siccome la prima accezione di populismo è quella di me, sì, di sentire il popolo a sfavore della classe politica, sì. Questo è populismo in questo senso, è una trasmissione populista. Se il populismo è costruire delle persone che vanno in piazza, che non sono quelle reali, ma che sono delle specie di attori teleguidate dal conduttore, questa è una sorella. Però c'è un po' la scelta dei mostri, la scelta dei mostri è bella, Barbato che urla, che grida. Quello però non è popolo, quello è un parlamentare. Quello è un parlamentare, vabbè, non è che l'ho portato apposta, anche noi quando... Neanche lei immagino non voti a Salerno, insomma. Il signor Cruciani, che c'è Parenzo, che vuoi dire? No, dico che tu nella tua domanda così tutta edulcorata, tutta perfetta. Ma che edulcorata? Quando mai? Sì, in verità il sottotesto era, non è che l'ordine era quello attaccare il governo Monti, cioè l'ordine di scuderia dato... Ma lui dirà di no. Non questo è quello che tu volevi chiedere, però come al solito fai tutto. No, non è che non è quello l'ordine di scuderia. Io francamente in questa trasmissione non è stato attaccato solo il governo Monti, perché... Le trasmissioni su Fiorito non sono state su contro il PDL, Paese. Certo, non c'è dubbio. Contro un po' tutto. Cioè, senti, Paolo, ti posso chiedere una cosa, ma per Mediaset, dimmi la verità, sì. Il fatto che Berlusconi non si ricandidi più alla presidenza del Consiglio è un bene o un male? Anche per l'informazione, per la politica, per il modo in cui si fa informazione, è un bene, no? Ma dici, dici anche per il futuro dell'azienda? No, l'azienda adesso sono altre cose, ma proprio per il fatto di non avere più Berlusconi come Presidente del Consiglio, sì, uno si può sentire anche un po' più libero di dire certe cose, secondo te? Vabbè, insomma, c'è chi si sentiva anche prima e chi si sentiva, ci saranno quelli che... Ma è meglio, no? È meglio non avere... Diciamo fa quel che ha detto, io penso che faccia una cosa fatta bene, perché no, ma io parlavo dell'informazione, però il partito di centrodestra al paese lo lascerebbe in quel caso. Ma è meglio per l'informazione di Mediaset, è meglio che Berlusconi non sia in prima fila, certo, cioè, sei più libero, sei più tranquillo, no? No, ma questo è interessante. Ma Minzolini arriva o non arriva? Io so, adesso diciamo la verità, so che ora, voi di Mediaset un terreno che io non lo so, non lo sai, però voi di Mediaset so che insomma non avete molta voglia di questo arrivo, stipendi un po' ritoccati. Ma allora, lì sono scelte editoriali, insomma non c'entra. C'è bisogno di Minzolini a Mediaset secondo te? Come? C'è bisogno di Minzolini a Mediaset secondo te? Ma non lo so, cioè bisognerebbe capire cosa viene a fare, perché allora ti potrei rispondere. Ma non se ne sente il bisogno? Non lo so, perché mi sembra che le caselle ci siano tutte. E quindi l'unica casella che non c'è è Matrix la sera, no? Ma se ne sente il bisogno di Minzolini di uno stipendio così alto o no? Dimmi la verità. Potrebbe pure lo studio di Quinta Colonna. Paolo, dimmi la verità. Di uno stipendio così alto, perché lo stipendio è quello che è, e di Minzolini a media, se si sente davvero bisogno oppure no? Lo stipendio così alto a Minzolini, dici? No, beh, lui ce l'ha alto lo stipendio, 450, una cosa di questo tipo. Insomma, c'è anche questo problema a Mediaset in questo momento, quindi come c'è in molti parti, quindi non lo so. Però, ripeto, sono scelte che mi competono a me, francamente. No, certo. Però si può dire che non se ne sente il bisogno. Sì, questo ora non... Dipende quel che gli vogliono fare, io questo non lo so. Ho capito, ma assumerlo per fargli fare la seconda serata con Matrix, eccetera, con uno stipendio così alto, ha senso secondo te? Per come sta andando l'azienda adesso? Non lo so, dovrebbe fare due conti, io francamente non ci voglio entrare, non mi interessa, è una cosa che... Comunque, le caselle sono piene, tu dici. È un po' come... La inviteresti la Minetti? Beh, no, mi sembra sgonfiata come sgonfiata è bello. Sgonfiata non mi sembra. No, non mi riferivo, no, perché sennò qui prima Fiorito e poi la Minetti, no, sgonfiata come si dice, no, delle notizie, ecco, perché è andata male, perché è andata meglio l'imitatrice là nel confronto, è andata meglio l'imitatrice. No, sgonfiata nel senso che ormai si sa, cioè che avresti la Minetti, francamente. Dipende, se può parlare di Berlusconi liberamente, sì, se non può parlare di Berlusconi liberamente, no, o sbaglio. Per esempio, se è mai andato a letto con Berlusconi, non gli chiederesti se è mai andato a letto con Berlusconi. Ma non me ne frega nulla. Beh, insomma, qualche... saranno problemi suoi di Berlusconi. Beh, insomma, qualche interesse ce lo può avere. Posso chiedere una cosa a Del Debbio? Ma Del Debbio, dal 94 in poi, ha sempre votato Forza Italia o comunque per il PDL? No, una volta mi sono accastenuto. E il resto sempre Berlusconi? Io il resto sempre PD, sì. E Renzi lo voteresti? No. No. Ti abbraccio. Ciao. A no. Presto. Ti abbraccio anch'io, grazie infinite. Grande Paolo Del Debbio, quinta colonna, seguite. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Secondo te, Parenzo, quello che ha detto la Guzzanti alla Carfagna e a Berlusconi in quel famoso intervento del 2008 in Piazza Navona, che secondo il giudice è diffamazione e 40.000 euro da pagare, la Guzzanti spiega nel suo blog che è giusto e però andatevelo a leggere, e si può mandare secondo te? Ma certo che si può mandare, è una battuta. No, ma lascia perdere una battuta. Perché devi subito difendere quello che non può essere difeso? Per te le sentenze valgono solo quando ti conviene. È stata punita con 40.000 euro, punto e basta. Cioè, non stare a discutere adesso della sentenza. 40.000 euro di multa o comunque da pagare per diffamazione, punto e basta. Tu mi chiedi se mandare quello è reiterazione del reato, questo. Bravo, quello ti ho chiesto. Si può mandare o non si può mandare? Devi chiederlo all'avvocato Mavenda o all'avvocato Chietini, forse non a me. Oppure all'avvocato Taormina, per esempio. No, Taormina, per me si può mandare tutto, anzi si manda solo quello. Perché non si sente? Perché non si sente? Dove sei? Io manderei solo quello, solo quello, tutta la missione. Sì, ma l'avvocato Taormina è uno che fa, che manda tutto il possibile. Cioè, uno mandiamo di tutto, certo. Ma come mandiamo tutto? Ma che cazzo ne frega, manda tutto. E mandiamo un pezzetto, dai. Osteria delle ministre, paraponzi ponzi po. Le ministre son maestre, paraponzi ponzi po. E se a letto sono portento. No, no, basta, che ci sono casini poi. Fermi, fermate tutto, ci ho ripensato. Sì. Grande referendum tra gli ascoltatori. Ma a parte che no, andatevelo a sentire su YouTube dove volete, perché comunque istigazione a delinquere la tua. Istigazione a delinquere. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Patto di stabilità, il governo a caccia di oltre 10 miliardi. La CGIL minaccia lo sciopero generale. Avviata la modifica del titolo quinto della Costituzione. Non c'è copertura per gli esodati. La ragioneria di Stato boccia il disegno di legge all'esame della Camera perché è troppo oneroso. Il governo, troveremo i soldi. La cancelliera Merkel in Grecia. Sostegno, ma Atene faccia la sua parte. Samaras, isolamento ingiusto. 40.000 in piazza, scontri e proteste. Berlusconi, non mi ricandido per favorire l'alleanza tra i moderati. Non escludo che Monti possa esserne il leader. Bersani, sbagliato tirarlo per la giacca. In vista del riordino delle province, raffica di dimissioni tra i presidenti, ma molti lasciano per candidarsi alle elezioni. A Milano, annuncio e poi dietro a fronte di Podestà. Forse 3 milioni i finanziamenti illeciti stanziati dal funzionario del comune di Milano ai tempi della Moratti, arrestato ieri. Per i PM è la punta di un iceberg. E in Calabria una TV di sole donne, un gruppo di giornaliste per parlare di diritti e attualità in una regione dove l'occupazione femminile è solo al 20%. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Scatenata la Biancofiore, da quanto è stata sdoganata qui alla Zanzara non fa che fare l'ultra berlusconiana, eh. Sentiamo, Casini è il peccatore reale del centrodestra. Io ritengo Casini, che è una persona che stimo e conosco da tempo, però lo considero il peccatore reale del centrodestra. Vabbè, venivano i mal di pancia, no, mi pare. Beh, sì, decisamente. Ieri sera Omnibus Notte, Biancofiore, sembra che Berlusconi sia l'anticristo. Per cioè il resto, PDL non ci sarà più. Ci sarà forse, ma non ne farà parte Berlusconi se farà il candidato capolista, se almeno ci consentono che il presidente possa almeno candidarsi politicamente, possa aspirare ancora ad essere deputato nella prossima legislatura, visto che sembra che sia veramente l'anticristo e che tutti lo debbano emarginare. E anche Tremonti non è tenero, eh? A proposito della visita di Berlusconi da Putin, dall'amico Putin, sentite? Adesso lo dice. Nessun interesse per PD e per PDL, posso almeno chiederle come valuta una possibile ridiscesa in campo di Silvio Berlusconi? Ma senta, lo chieda a lui, oggi lo può trovare, penso, nella ex Unione Sovietica in visita ad amici. Oggi lo può trovare nell'ex Unione Sovietica. Geniale. In visita ad amici. Tagliamo questo pezzettino. oggi, del professore. Siamo al top, siamo al top. Tanta roba, hai molti hashtag, tanta roba. A proposito di Sabrina Guzzanti, Paolo Guzzanti, sentite, sentite Paolo Guzzanti, mi dispiace per Sabrina, beh, 40.000 euro, cioè, non è che adesso... mica poco, non mi pare una cosa drammatica, no, non mi pare una cosa... Non mi pare drammatico, 40.000 euro, quella è ricca, su, dai, la Guzzanti è ricca, 40.000 euro, cioè, ma sono cose normali, su, sentiamo. Mi dispiace molto per Sabina, mi dispiace molto per Sabina, alla quale anzi approfitto dei vostri microfoni per esprimerle la mia solidarietà, il mio affetto, la mia stima. Ascoltatori, voglio ascoltatori. Michele da Treviso, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani e tutti gli ascoltatori. Vada. Allora, no, riguardo, prima sono salito in macchina, ho sentito che aveva come ospite il dottor Del Debbio e parlava della trasmissione di ieri sera, però non ho sentito l'incipit dell'intervento. Io ero in piazza ieri sera e volevo far capire che lei sarà pratico di televisione, quindi quello che si vede dietro le quinte è diverso da quello che si vede davanti. Voglio testimoniarle che era stato fatto un ottimo lavoro di giornalismo e c'erano degli ospiti che si erano preparati degli argomenti seri o comunque reali dell'economia e che non hanno trovato lo spazio. Quindi voglio dire, è uscita un'immagine della quale... Però scusi Michele, abbia pazienza, io posso capire tutto che alcuni imprenditori tra cui lei forse non hanno trovato spazio, a parte che chi se ne frega di quello che è successo dietro le quinte di Quinta Colonna, però lasciamo perdere questo argomento. Ho capito, però ognuno a casa sua è padrone delle cose che fa, cioè se uno vuole fare la trasmissione in un certo modo, la fa in un certo modo. Ma di che parliamo? Cioè, lei parla, la trasmissione poteva essere più seria, eccetera, eccetera, vabbè, allora... No, dico solo che dietro a quella cosa lì che è stata fatta ieri sera c'era una preparazione diversa e probabilmente gli spettatori hanno visto una parte ma non hanno lo specchio completo di quello che è la provincia di Treviso che problemi. Per fortuna le trasmissioni televisive non devono offrire nessuno specchio completo di una cosa, cioè non è questo l'intento, non è questo l'obiettivo. Davide da Mantova, la Guzzanti dice: ho sbagliato a offendere, ma quanto fatto agli italiani non è risarcibile, cioè dire la nomina della Carfagna a ministro, dunque insiste. Però ho sbagliato a offendere la Carfagna. Davide da Mantova. Sì. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Sì. Anch'io volevo intervenire su Del Debbio. Sì. Lei non so cosa dirà, ma io ricordo il signor Del Debbio qualche anno fa che conduceva una trasmissione su Italia 1 legata a Studio Aperto sulle opinioni. Sì, come no, i famosi Vox Populi, insomma, in cui 9 volte su 10 si dava ragione a Berlusconi, più o meno. Insomma. Perfetto, ecco, volevo intervenire per dire quello. Adesso, se il successore di Berlusconi dovesse essere come... Ma non è così, chiaramente. Del Debbio, diciamo che non ci spostiamo molto, nel senso che io la ricordo come una trasmissione assolutamente scandalosa. Io non ho problemi con le trasmissioni secondo me era talmente comica la situazione che non spostava mezzo voto, secondo me, cioè il microfono che girava in una piazza, in una strada in cui si chiedevano delle cose e poi naturalmente uno mette le opinioni che vuole, non è che si mettevano tutte le opinioni a caso. Ho capito, ma era talmente scandalosa che io capisco i programmi schierati, ma questi fintamente schierati io non li sopporto sinceramente. Vabbè, grazie Davide. Intanto è stato sciolto il Consiglio Comunale di Reggio Calabria. E come mai è stato sciolto il Consiglio Comunale di Reggio Calabria? Indovinate voi. Vabbè, una cosa a caso: è stato sciolto perché c'è troppo traffico, è stato sciolto perché c'è un problema con le condutture idriche. No, altre cose. Giovanni Datà, secondo te Parenzo perché è stato sciolto? Ma che sta facendo Parenzo? David! Sto recandomi al torpedone. Ma chi se ne frega? Ti ho fatto una domanda, Giovanni da Taranto, mamma mia, guarda. Giovanni. Giovanni? Daniele? Ecco, vada. Abbassi la radio, spenga. Io intanto le faccio i complimenti per la trasmissione. Sì, vabbè, chi se ne frega? Poi? Seconda cosa, come chi se ne frega? E chi se ne frega? Non li voglio sentire. Non li voglio sentire, mi danno fastidio. Va bene. Poi le devo aggiungere ai complimenti anche che Cruciani... Ma perché non abbassa questa radio in sottofondo? La spenga, la distrugga, la faccia esplodere! No, perché io mentre parlo... C'è mia moglie a fianco a me, deve sentire anche lei. Ma ho capito, non si può avere tutto dalla vita però. Adesso, Vabbè, okay. Mi passi sua moglie un attimo, mi passi sua moglie. Mi passi sua moglie. Pronto? Buonasera signora, come si chiama? Grazia. Signora Grazia, allora io le voglio chiedere una cosa, signora Grazia. Lei mi dica la verità. Lei e suo marito ogni sera quando montate in macchina sentite la zanzara? Diciamola tutta o no? Giusto? Sì, sì, è vero. È vero, bene, mi basta questo. Scusi, perché le vuole sentire suo marito alla radio? Cioè, basta che sta lì, l'ascolta mentre parla. Ah, la vuole sentire anche le mie risposte, allora? Sì. Eh sì. Ma lei che mestiere fa, signora? La casalinga? Sono pensionata. È pensionata. E suo marito che fa? Pensionato pure lui? Sì. Ah, dunque. Ero impiegata. Sì. Era impiegata. E suo marito che faceva? L'Ilva, no? No, all'Arsenale. A ridaglie con sta radio accesa. La ringrazio, signora. Mi passi suo marito di nuovo, il signor Giovanni. Okay. Grazie. Va bene, adesso l'ho spenta addirittura, va bene? Va bene, allora? Ok, dicevo prima che sì. In tanti complimenti della trasmissione non ne ha bisogno perché ci sono tanti ascoltatori come me che la seguono. Poi aggiungevo a questo fatto qua sempre per lei, no? Dottor Cruciani, dico bene? Sì. Sempre per lei, che rimane sempre un para... Guru. Sì. No, ha detto ho la borsa, lei è lentissimo, ho la borsa. Parenzo, di qualcosa anche tu, dove sei? No, ma volevo parlare con la signora Grazia, che tu hai liquidato in quel malo modo, bellissima signora, che probabilmente con un grande atto d'amore voleva sentire alla radio la voce del marito perché è eccitata all'idea che il marito entri nella zanzara. Questo è il motivo. Vabbè, adesso subito queste parole, vabbè, c'è la borsa, torniamo tra un attimo. Oggi lo può trovare, penso, nella ex Unione Sovietica in visita ad amici. Wake up, polpetta, sun is shining, don't you see? Urban Forum. Signor Luigi Cesaro, presidente della provincia di Napoli, uno dei nostri miti assoluti. Immenso. Il quale oggi attraverso tutto un marchingegno complicato, difficilissimo da spiegare, in sostanza cosa ha fatto? Ha annunciato le sue dimissioni attraverso la decadenza. Tutto questo per che cosa? Per potersi ricandidare alle elezioni politiche del 2013. Questa è la realtà. Questa è la realtà ed è una cosa vergognosa che tanti presidenti di provincia ci piglino per il culo dicendo che sì, il governo ha tagliato, non ha più senso restare qui. In realtà si vogliono tutti dimettere per essere più liberi di candidarsi alle elezioni politiche. Questa è la realtà, cari signori. Non vi fate fregare dalle parole, dalle stronzate che vi raccontano. La realtà è che si vogliono candidare alle politiche, sarebbe, non vi spiego perché, complicato dal punto di vista tecnico, anzi impossibile se restano presidente della provincia, e dunque si dimettono o annunciano le dimissioni. Un passo indietro l'ha fatto il presidente della provincia di Milano, Podestà, dopo un colloquio con Alfano, aveva annunciato anche lì un pasticcio, un grande pasticcio. Francesco da Foggia, buonasera. Buonasera. Sì. Guardi, il discorso è molto chiaro. In un'epoca, così con tutto quello che succede, vedere certe trasmissioni noiose, mi riferisco alle trasmissioni televisive dove si invitano gli stessi politici, allora? Si fanno queste domande, è una palla incredibile, proprio una noia mortale. A me lo vengono dici. I comici che dicono le cose come stanno, purtroppo è così, bisogna affidarsi ai comici per dire un po' come la Buzzanti, come Grillo. Non so per quale motivo, questo non lo so, ma sono gli unici che poi in qualche modo ti dicono le cose, chiamano un attimo solo. Pronto? Pronto? Chi è? Pinuccio. Chi è? Pinuccio il faccendiere, il mitico Pinuccio il faccendiere. Al telefono, no, oggi non sta al telefono Pinuccio. Va bene. Non è al telefono. No, ragazzi, oggi è una tragedia, una tragedia proprio, una giornata. Perché? Oggi, che è successo? Che è successo Pinuccio il faccendiere? E Berlusconi ha fatto il passo indietro. Sì, sì. È mosso col furgone carico di mignotti, io Alfano che stiamo andando in giro a vedere chi ci vuole candidare. Ma come, scusa, siamo sotto a casa di Casini. Come sotto casa di Casini? Angiolino, arrampate di... sì, dal balcone cerca di entrare e vedi un po'. Scusate, ma quando lo fa entrare salamo che li butteremo a lette da sopra. E non riesce ad entrare a casa di Casini. Cioè, chi è che non riesce a entrare a casa? Tragedia. Chi è che non riesce a entrare a casa di Casini? Angelino Alfano. Stiamo provando a convincere qualcuno qua, insomma, se ne vanno soldi. Io ho un carico anche di gioielli a farfalle che adesso è più le piazze. Vediamo se Angelino riesce. Scusa un attimo, ma com'è che tu sei sempre in mezzo a tutti questi impicci, tutti questi imbrogli, a tutto, ogni tanto chiami i politici, ogni tanto sei con i camion pieno di prostitute, come ma mai? Ma che fai della vita? e se io gli faccio scendere una figura che ormai scasseggia, li stanno arrestando tutti, quindi mi trovo in questo momento a dover accrippare, so, devo stare sia col PD, col PDR, devo tappare un po' di buchi. Ma oltre al camion l'hanno preso, Tarantini l'hanno preso, Fiorito l'hanno preso, e adesso insomma mi devo sbattere. Non è che mi servono 2-3 mignotte, ragazzi. No, veramente no. Ma quante ce n'hai in questo carico In questo momento sono 10, 3 minorenni e 7 maggiorenni. Se volete io ve le posso dare, vi faccio un buon prezzo. No, guarda, francamente non vogliamo entrare in questo. Dai, che ne ha bisogno. Scusate un attimo, Angelino, ma è proprio un tremore, hai fatto cadere la pianta là. Scusate, ma si è arrampicato, ha fatto cadere la pianta al balcone della signora. Ma scusa, perché si sta arrampicando il signor Alfano, scusa? Perché Casino lo vuole fare entrare, che ha detto no, io non mi voglio candidare. E lui ha citofonato, gli ha detto di che sei dalla pizzeria. Quello ha detto no, sono Angelino Alfano, e quello non lo vogliono fare entrare. Ma il faccendiere con questi giovani è proprio un cazzone. Angelino, madonna mia. Ma non si muove. Niente da fare. Vabbè, nuovo, ragazzi. Lo so, vabbè, allora ci sentiamo. Io cerco di dare una mano, ma niente. Sono precari proprio. Il faccendiere anche lui si deve riadattare. Pinuccio, io ti voglio salutare in pace. O sei al telefono con qualche politico, qualcuno, oppure sei lì a brigare per portare Alfano da Casini, per portare le donne a Berlusconi, io non lo so come si fa. Vabbè. Grazie. Pure le primarie adesso, devo andare a fare la convergenza al camper di Renzi dopo domani. Ah, la convergenza dici. Sì, poi vediamo se pure lui ha bisogno, perché lo vedo un po' che ha donne scarseggio, vediamo se mi porto pure a lui 2 o 3 mele posto di queste, vediamo se mi fa il piacere, anche perché sono tutti una grande comunità, ragazzi, ancora vi credete che siete là a fare la radio, questi sono tutti, si scambiano i favori, si scambiano le cose, le femmine, se ce lo dici tu, poi, grazie Pinuccio. Ciao. Francesco, che volevi dire, scusa, Francesco da Foggia. Dopo quello che mi hai detto, sono d'accordo, fino a poco tempo fa è una parodia, oggi è superato dalla realtà, è molto più di Pinuccio, purtroppo, quindi per dire, siete grandi, va bene. Vabbè, grazie. Antonio Dai Sernia, prego. Buonasera. Buonasera. Se ne può, Cruciani, ma con tutto questo che sta uscendo fuori da qualche mese o qualche annetto a questa parte, con la corruzione, e anche che dovrebbe uscire questo disegno DDL sulla corruzione. Vabbè, allora? Ma se ne può, ma perché non abbassa la radio? Daniele, adesso lei mi fa talmente arrabbiare che io la prenderei per il bavero se fosse possibile e così la porterei in giro, così perché non chiude la radio? La prego. No, ce l'ho chiusa. Ce l'ha chiusa, non è vero che ce l'ha chiusa. Vabbè, Antonio Dai Sernia, mi sono scocciato. Antonio Dai Sernia è lei, scusi, Daniele della provincia di Roma. Quello stronzo ha risposto. Ma chi è? Moreno dalla provincia di... Chi è, ragazzi? Antonio, chi è? Mi dite chi è, per favore? Moreno dalla provincia di Bologna. Sì, cioè, volevo dire che mi sono scocciato di ascoltare tutte le volte chi se ne frega. Perché non lo dice a casa sua con i suoi familiari? Lo dico qua perché lo posso dire. No, perché è ignorante, perché non si parla così a gente che l'ascolta volentieri. Mi scoccia veramente, mi dà fastidio. A parte questo discorso. E poi volevo dire due cose su Del Debbio. Diciamo, come presentatore non mi piace molto perché è abbastanza lento e non ha ritmo. A lei però non piace. Dire che uno comincia a rivangare tutto sul suo passato, eccetera, questo mi sembra assurdo. Moreno, chi se ne frega, glielo posso dire? No, mi dispiace. Ma sto scherzando, scherzando. Ma lei lo ripete sempre tutte le volte. Ma dipende. Però, dipende. Se tutte le volte devo ascoltare uno che mi dice chi se ne frega, è una parola improbabile. Ma dipende, che non l'ho usata. Ma dipende, Moreno, da chi parla, da chi dice, da cosa si dice, eccetera. Non è un refrain continuo. Cioè, qual è il problema? No, il problema è questo, il linguaggio molte volte va gestito in certi modi, molte volte sembra che lei faccia fatica a gestire perché si arrabbia, ma si sente, ma veramente mi comporto come nella vita, stati emotivi molte volte che, esatto, che sono, bravo, incontrollabili. Ma lei ha capito, l'unica, secondo me l'unica soluzione sarebbe mandare a casa Parenzo, quella è l'unica, ma soluzione. Che c'entra Parenzo adesso, scusa. Ma perché? No, perché molte volte la fa arrabbiare perché non risponde al telefono, eccetera, eccetera. Ma no, ma guardi che io mi comporto come nella vita normale, mi arrabbio, mi sono calmo, reagisco. Vada a casa lei. Vada a casa lei, Moreno. Dove sta? No, le dica a Parenzo di andare a casa lui, perché lui viene a fare il comunista tutte le sere e ci ha rotto le scatole. Ma quale comunista? Ma non è vero, sì, su, sì, dai. Sì. Non è vero, Moreno, non è vero. Si faccia il test prima. Io lo spero per lui che sia tutta una finzione, perché sennò veramente è grave. Vabbè, grazie. Maurizio da Milano, buonasera. Il comunista, come si permette? Dica. Signora, no, niente, volevo soltanto intervenire sul discorso della faziosità di Del Debbio. Ancora questo Del Debbio fazioso? Ma non è ma nel senso che concordo assolutamente con quello che dicevi tu prima, perché era talmente fazioso esattamente come il TG di Emilio Fede. Ma erano due cose diverse, due cose molto diverse. Sì, ma la faziosità era uguale e la gente comunque lo vedeva soltanto per farsi due risate e sicuramente non era... Ma lei sta parlando delle famose interviste per strada, no? Esatto. Sì, vabbè, ma insomma è sotto gli occhi di tutti, su. Un grande ritorno alla Zanzara, Parenzo, un ex ministro del PDL. Indovina un po' chi è, dai, non ti ho detto nulla stasera, non ti ho detto niente. Non un t'ho ex potuto... ministro del PDL, ministro, potrebbe essere il signor Fitto, che non si capisce fine ha fatto Fitto, peraltro. No, come no, è uno di quelli che guida il partito, che poi non si sa ancora se ci sarà. Però non è Fitto, o se mai Alfano, esistito. È stato ministro, il signor Alfano. Ma no, Alfano che c'è, il segretario del PDL. Su, è stato ministro però, il signor Alfano. Sì, ma non è lui. Allora fammi pensare, dai un iniziale, compro un iniziale, una vocale. C è il nome, l'iniziale del cognome? S, CS. Vabbè, allora è facile, Claudio Scaiola. Eccoci qui, buonasera. Buonasera a voi. Direttamente da Imperia. Che meraviglia. Caro Scaiola. Finalmente un po' di autorevolezza a questa trasmissione. Non bene. Prendere in giro come al solito. No, non lo dico in con serietà perché ci dà sempre notizie, signor Scaiola, quindi bene. Allora, voglio chiedere subito a Scaiola questa cosa. Berlusconi ha fatto quello che ha fatto, questo passo. Secondo lei è definitivo questo passo indietro, diciamo, dalla ipotesi di candidarsi? Oppure... E ha fatto bene, soprattutto. Ha fatto bene, già ha detto qualcosa. Comunque, è definitiva questa cosa oppure, come dice Casini, con Berlusconi non si sa mai? Ma guardi, io credo che lui abbia fatto una valutazione molto, molto opportuna in questo momento e anche molto generosa. Il problema è che la raccolgano gli altri. Se la raccolgono gli altri, sicuramente sarà duratura. Però se non viene raccolta, ci diranno che neanche questo serve a fare l'unione dei moderati, allora dovremo attrezzarci a vedere cosa sarà meglio, visto che dovremmo condurre comunque una campagna elettorale. Scusi Scaiola, quindi però la parola aspetta agli altri. Sì, adesso, no, certo, non c'è dubbio, sì, però qualcuno dice che è tutto un po' un trucco, nel senso che comunque Berlusconi resta lì, è come se uno dicesse devi sparire dalla scena completamente, ritirarti ai giardinetti, non fare nulla, non dire più nulla e forse dopo possiamo cominciare a ripensare a voi, o no? Non è questo l'atteggiamento? Infatti non è da intendere così, è da intendere che dobbiamo mettere insieme quelli che si riconoscono sui valori, sui principi del Partito Popolare Europeo, mettere insieme, buttare giù un manifesto, mettere insieme i 4, 5, 6 punti programmatici per cercare di salvare l'Italia, vedere chi ci sta, chi partecipa a questa avventura e poi si vedranno i ruoli, a mio parere dovranno venire attraverso le primarie. Ecco, ma Berlusconi come lo... Ecco, le primarie, lei dice, no? Le primarie per scegliere il leader, va bene. Ma io voglio capire una cosa, Berlusconi come lo vede lei? Adesso, sinceramente, a capo di una fondazione, senatore a vita... che ne so, Presidente della Repubblica, perché no? Oppure il Presidente della Repubblica ormai è un'ipotesi completamente tramontata, me lo dica sinceramente Scaiola, è molto... Ma guardi, noi Presidente della Repubblica la voteremo quando avremo fatto il Parlamento, chi avrà la maggioranza avrà le carte da giocare. Lei lo voterebbe come Presidente? Oggi non esiste. Ma come Presidente della Repubblica lo voterebbe lei? Ma è un tema che non esiste, perché parlare delle cose che non esistono. Perché oggi spesso... il problema è un altro. Oggi il problema è che non si può pensare di far politica facendo le preclusioni verso gli altri. E allora dico, Berlusconi ha dato a questo paese, a mio parere ha fatto anche molto bene. Poi anche lui, come tutti, ha fatto degli errori. Ma da lì a dire i moderati non si possono unire perché c'è Berlusconi non va bene. Andiamo a guardare, mettiamo insieme alcune cose chiare, sì, mettiamoci attorno a un tavolo, valutiamo quali sono i veri problemi della gente, sì, cosa possiamo fare per risolverli, e a quel punto facciamo le primarie della coalizione. Berlusconi ha detto che farebbe un passo indietro. Ecco, ma sta coalizione da chi deve essere formata? Perché le faccio sentire quello che ha detto Berlusconi, una cosa abbastanza imbarazzante, devo dire, su quali sarebbero i soggetti moderati, oltre naturalmente... Guardi, secondo me l'appello deve essere rivolto non ai leader di questi tempi, siamo tutti ammaccati, ma secondo me deve essere rivolto agli elettori. E vabbè, questo sono gli elettori moderati. Sì. Che sono la maggior parte di coloro, ecco, che ma un leader ci vuole, un leader ci vuole sempre. Lei chi vede come leader? Ma i leader ne possono uscire. Ma lei chi vede? Montezemolo? Che hanno sicuramente grande spessore. C'è Monti in primis. C'è, ma Monti non si vuole candidare con una coalizione. C'è Montezemolo. No, ma facciamo una classifica delle sue preferenze. C'è Alfano, che è uno dei più bravi. Però facciamo una classifica delle sue preferenze, Scajola. Lei, facciamo un podio delle sue preferenze. Non c'è niente di male avere delle preferenze, in fin dei conti. Chi ci mettiamo come futuro leader di questi cosiddetti moderati? Montezemolo? Io metterei Alfano. Alfano perché è più comodo, lei dice così perché Alfano... No, io sono mica uno che va per comodità, sono molto, molto controcorrente. Poi due sempre. Che è? Montezemolo? Perché due. Lo ritengo giovane, lo ritengo fresco. Montezemolo è uno che ha un valore aggiunto. Due, che viene, diciamo, dalla società civile. E tre? Che ha una buona Passera. Esperienza di governo, sì, delle cose del paese. È un imprenditore di successo. Ma viene dopo, voi avete la mania, sì, di giocare in questo modo. Ma noi giochiamo, non sì. Dico a voi, per carità. Dico la semplificazione giornalistica. Lo so. Io credo che il periodo sì. dei leader carismatici sia terminato. Vabbè, ho capito, ma non lo può dire lei, Scajola, è stato con Berlusconi un sacco di anni, adesso è finito il periodo di Berlusconi e dei leader perché carismatici. Si è consumato un periodo sì. molto positivo, dove Berlusconi ha cambiato la storia della politica. Ho capito, ma lì da una parte c'è Renzi, da voi... Ma comincia una nuova fase. Sì. Però, ho capito, un nuovo leader ci vuole. Lei dice, Alfano, Montezemolo... Lo possiamo scegliere dalle primarie. Per esempio, Della Valle? Ma Della Valle mi sembra che sia un abile imprenditore, ma più capace a sfasciare che a mettere insieme. Più il problema è mettere insieme. Più capace a sfasciare che a mettere insieme. Senta, qualcuno dice, già su internet c'è un po' una ribellione, che questo appello ai moderati è rivolto in fin dei conti anche a Fini. Ma insomma, lei lo vorrebbe recuperare, Fini, o no? Guardi, io sono dell'avviso, ripeto, fino alla noia, sì. che molti di questi sì. personaggi hanno fatto il loro tempo. E Fini pure? Credo che l'appello deve essere rivolto agli elettori che non si riconoscono nella sinistra, che ritengono che sia necessario fare grandi riforme in questo sì. paese e che si possa fare sì. attraverso la più chiara, a mio parere, però, predisposizione di un però, progetto. Scajola, io le ho chiesto di Fini, però, al di là di questa cosa qua che abbiamo Fini capito. Fini si è messo fuori dal PDL. Ha avuto anche oggi, appena Berlusconi ha pronunciato la sua disponibilità, mi pare sia stato molto velenoso, non mi pare che sia un modo sì. su cui costruire. Bisogna mettere insieme le persone che vogliono costruire. Lei il 20 agosto però disse, io me lo ricordo, ho fatto una rassegna stampa, ricominciamo da Berlusconi. Adesso no, dice... io ho detto e ripeto, con Berlusconi per andare oltre Berlusconi. Vabbè, ho capito, ma... No, non ha capito. È politichesissimo questa cosa qui, è super politichese. Perché non l'ha capito. Ma come non l'ho capito? Quando ho detto con Berlusconi per andare oltre Berlusconi, ho detto la stessa identica cosa che dice Berlusconi adesso? Ha detto stamattina, quando dice sono disposto a fare un passo indietro. Parenzo? Quindi con Berlusconi per andare oltre Berlusconi. Parenzo, dimmi una cosa, tu lo sai che Scajola, e questo devo dire che è abbastanza grave, Scajola, lei che è parlamentare da 16 anni e 148 giorni, però nell'ultima legislatura abbiamo il 21% di presenze ai voti, bisogna rimediare a questa cosa, come mai? Un'altra cosa, perché voi giornalisti siete molto bravi, però poi non approfondite. Ai voti, alle votazioni. Perché? Qualcuno è ministro, non partecipa ai lavori d'aula, salvo che per i voti di fiducia. Ho capito, però... Allora lei deve andarsi a informare di questa legislatura, quanto sono stato presente, quando non sono stato presente. Vedremo. Ok? Vedremo. Me la manderò a casa domani. Me la mandi domani e verifichiamo. Però questo serve, perché vede, se facciamo polemica tanto per fare... Ma no, ma noi facciamo... A lei, che lei è uno bravissimo e per carità, mi rivolgo a quello che lei adesso è in persona, sì, cioè il mondo del giornalismo, se non si approfondisce e si sbaglia, no, quando ma... uno è al governo non partecipa, sì, ai lavori d'aula, se non eccezionalmente, mi sono spiegato? Ho capito, però adesso andiamo a verificare dopo le presenze nel periodo, bravo, successivo a quando non è più ministro. Perfetto, nell'ultimo anno. Mi aiuti che mi serve ogni tanto, bravo, perché mi ho impegnato in tante, bravo, cose. Io in non ho capito una cosa, poi c'ho più tempo adesso, quindi la posso anche aiutare. No, io dalla... Parenzo, dimmi. Dall'ottimo Scajola, non ho capito una cosa, ma e chi si, secondo lui chi si candiderà a queste primarie fantomatiche del PDL? La Santanchè già l'hanno annunciato che si candida, e tra i moderati la Santanchè l'annovera tra i moderati? E la Santanchè appartiene, mi pare di capire, sì, alla destra moderna, movimentista. Io ritengo che il partito dei moderati debba avere molta attenzione, sì, anche verso la destra democratica, ma che la parte maggioritaria, sì, di stragrande maggioranza deve fare, insomma, riferimento in questi ai valori del partito del popolare. I famosi moderati, la Santanchè, non mi pare che non si mi possa... Pare. Non mi pare, ecco appunto. Persona di valore, ma non mi pare che neanche lei abbia piacere di etichettarsi come una moderata. Come una moderata. Berlusconi ci ha messo anche Sgarbi tra i leader, i piccoli leader moderati, nell'intervista questa mattina a Belpietro. Diciamo che... L'idea è di fare un partito moderato allargato. Ah, ecco. Torniamo tra un attimo dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Rimediamo il dato sulla presenza di Scajola, che è importante, lo voglio assolutamente, anche per riconoscere, dico, vabbè, dopo, da quando non è più ministro, è stato invece un grande frequentatore dei voti alla Camera. Eccoci, 800 24 00 24. Lei si vuole ricandidare, Scajola, alle prossime elezioni? Guardi, non l'ho ancora deciso, ma se, come spero, ci saranno le primarie per scegliere i candidati e le preferenze affinché i cittadini possano scegliere, allora in quella ipotesi sarò sicuramente candidato. Se la legge fosse diversa lo valuterò, ma vorrei francamente che ci fossero, sì, le primarie e le preferenze, perché in questo paese abbiamo bisogno di levarci un po' da mezzo troppa gente autoreferenziale. Per esempio? Ce ne sono tanti che parlano a vanvera, che speculano sulle cose degli altri. Lei fa riferimento a Crosetto, a quello che ha detto ieri su di lei? Parlo anche di Crosetto, che dove è andato ha sfasciato, ma perché è abituato ad anticipare la parola al pensiero, è più veloce la parola che il pensiero, e anche lui non vuole guardarsi mai le carte. Ma dove è andato, sì, ma non voglio entrare nel merito, dove è andato ha sfasciato che cosa significa? L'abbiamo fatto coordinatore del Piemonte e purtroppo è stato un disastro. Credo sia utile anche per lui la misura con le preferenze nel proprio territorio. Che lei dice che i voti non ce l'ha, eh? Non lo so, spero che li abbia. Scusi un attimo, perché se a un certo punto è ieri all'improvviso qui da noi, parlando della vicenda Minetti, ha detto ci dobbiamo vergognare, quale motivo c'è di fondo? Ci possono essere due ipotesi. Sì. O quella che lui è abituato ad avere più velocità nella parola e nel pensiero, oppure la seconda, che abbia lavorato per conto terzi. Addirittura? Chissà. Cioè, lei dice per rivalità locali, dice lei. Da noi in questo tempo c'è molto veleno, c'è un po' in tutta la politica e questo mi dispiace. Però c'è una guerra per bande anche nel PDL, diciamo la verità. È diventata una guerra per bande molto forte, perché non è che abbiamo dei grandi dati di consenso. No, e quindi certo, diminuiscono anche i posti da deputato, e allora forse la ricerca mediatica del consenso populista, sì, può cercare di rimediare. Per quello ci vogliono le preferenze, perché le cose migliori, sì, se lo ricorderà anche lei. Anche se Fiorito viene dalle preferenze, bisogna ricordarlo. Cioè le preferenze hanno anche delle storture. Delle storture, sicuramente. Ma sa perché la stortura del Lazio parte da questo modo, perché? A mio parere? Perché? Perché non c'è stata la lista di Roma. Sì, quello sì, perché è vero. Nel disastro generale sono stati eletti, abbiamo soprattutto gli occhi, abbiamo finta di niente. Abbiamo proseguito a mandare avanti le cose che non funzionavano. Però ecco, sulla questione Crosetto voglio concludere. Uno che dice Scajola dovrebbe andare fuori dal PDL, cioè espulso quasi come Fiorito, cioè una cosa molto pesante. Lei che tipo di reazione ha di fronte a una cosa di questo? Ma prima ci sono rimasto male. Poi conosco Crosetto e ho fatto finta di dimenticare. Poi ho visto stasera, pochi minuti fa, che ha fatto una dichiarazione in cui dice... Sì. Ammesso che la vicenda della casa non sarà chiarita e spiegata, e allora mi chiedo, e perché non se l'è approfondita e non se l'è spiegata? Io gliela potevo spiegare. Perché vivere cercando vedo il sensazionalismo. Vedo che ce l'ha anche con Tremonti, però di Tremonti non ha fatto il nome. No, non ha fatto il nome. Pare che fosse indicato nelle dichiarazioni che ha fatto ieri da voi. Però non parliamo. No, senta, però se lei fosse condannato... I sciacalli sono... meglio non usarli. Sciacalli, parliamo delle cose. Ecco, però, scusi, Scaiola, se lei fosse condannato in primo grado per quella vicenda lì, che succederebbe della sua candidatura? Guardi, io sostengo questo. In un paese il grado di civiltà è dato dal fatto che i processi incominciano in tribunale e finiscono in tribunale. Sì. Questa è la civiltà. Sostengo anche che nella politica, siccome il nome candidato vuol dire candido e quindi significa che deve essere al di sopra di ogni sospetto, io sostengo, e lo farò per me, che se io fossi condannato anche solo in primo grado, anche a quasi niente, ma comunque ad una piccola cosa, io non mi candiderei, punto. Sono credibile nel dirgliele, sa perché? Perché? Perché io da ministro mi sono dimesso senza aver avuto neanche un avviso di garanzia, non ho neanche risposto, mi sono preso tutta la infamia addosso senza rispondere nulla, dicendo arriverà un processo prima o poi, chiarirà le cose. Senta Scaiola, se lei, secondo lei è valido, Parenzo, questo è un argomento interessante, le condanne in primo grado, chi condannato in primo grado non deve candidarsi in Parlamento? Guardi, io ritengo che in questo momento di grandissima difficoltà della credibilità della politica, la cosa peggiore sia fare di tutt'erba un fascio, perché a quel punto lì, muovendoci in questo modo, vengono fuori e si coprono e si nascondono quelli che hanno tante cose però... che non sono opportune. Io sono dell'avviso che se uno ha una condanna in primo grado non è opportuno che si candidi. Ok, perfetto. Renzi le piace? Andiamo un po' più sul divertissimo. Renzi mi piace perché è spigliato, parla bene. Mi pare però che lo voterebbe se fosse evidenziando eccessivamente la rottamazione più che la proposta. La politica è confronto. D'accordo, ma lo voterebbe se fosse, come dire, se non fosse nel PD. C'è un personaggio che a molti del centrodestra piace, diciamo la verità. A moltissimi a me piace coniugare la novità, la gioventù con l'esperienza. Capito, Parenzo? Chi è il Renzi? Devo ancora capire se Renzi c'ha l'esperienza. Chi è il Renzi del centrodestra? Chiede Parenzo. Io credo che da questo punto di vista è sicuramente Alfano. Alfano. Va bene. Non ce lo vedo col cap. Anch'io non ce lo vedo un po', anch'io non ce lo vedo. Non ha il quid, disse Berlusconi, si ricorda? Non ha il quid, è quella cosa resta. Facciamo le primarie e vediamo chi è che ha il quid. Ma lei non è che si candida pure per le primarie, no? No, io ritengo comunque sia, che il mio ruolo può essere quello di esperienza, ma capisco, anche se ingiustamente, ma capisco che c'è la opportunità. Il mio ruolo può essere quello di partecipare ad una squadra, non di fare il protagonista. Grazie, a presto, grazie, a presto. Salute. 25 minuti, 800 24 00 24. Gianni da Milano, buonasera Gianni. Sì, buonasera. Vada. Io volevo intervenire in merito all'intervento e all'intervista che lei ha fatto adesso all'onorevole Scaiola. Io ho seguito il suo consiglio in tante puntate di non indignarsi più di nulla e devo dire che fino adesso ci sono riuscito. Ho fatto molta fatica stasera, questo è il nuovo della politica, continuiamo a parlare di primarie ma non sappiamo su che cosa lui dice ci vogliono le primarie per il leader, diciamo, del centrodestra, che sia pure la PD. È sempre quella dell'affermazione dei pacchetti di voti e non dei programmi. Ma che c'entrano i pacchetti di voti? Guardi, io sono contrario alle preferenze come lei, cioè, se lei è contrario alle preferenze, contrarissimo. Io vorrei capire il signor Scaiola cosa di nuovo da dire. Comunque la cosa è incredibile. Vabbè, ma poi vedremo. Montezemolo, questo è un paese di vecchi. Se andiamo avanti così non c'è più futuro per i nostri giovani. Allora Gianni, la cosa incredibile dell'Italia, alle 20:06 minuti di oggi, che è che diavolo di giorno è? Il 9 di ottobre, martedì 9 ottobre, è che ci sono ancora comuni, caro Parenzo, comuni nel 2012, comuni che vengono sciolti per contiguità con la mafia, comuni importanti, hai capito? Ma non vi stupisce che cosa? Dovete essere felice che questo succeda? No, ma certo che sono felice, certo che sono felice, sono felicissimo che lo Stato interviene per sciogliere il Consiglio Comunale di Reggio Calabria, cioè il capoluogo di una delle regioni più importanti del Sud, anche se disastrata, la Calabria, viene sciolto per contiguità con la mafia, cioè nel 2012. Ecco. Enzo dalla provincia di Milano. Vabbè, nel 2012 la mafia sono esponenti autorevoli del centrodestra. Vabbè, stai zitto un attimo, Enzo, provincia di Milano. Sì, buonasera Cucciari. Ma lei non si dovrebbe stupire che nel 2012 ci sono ancora comuni con la mafia. Ma no, ma non mi stupisco. Secondo lei per 60 anni in Italia come è andata avanti? Sì, d'accordo, ma non mi sto stupendo, sto dicendo semplicemente che uno si dovrebbe, cioè come dire, si dovrebbe porre delle domande. Ancora oggi nel 2012 un comune importante come Reggio Calabria viene sciolto per contiguità con la mafia, cioè questo è il punto fondamentale. Ho capito, ma il problema è che queste domande si dovrebbero porre anche altri politici. Va bene. Allora non ho mai fatto nulla. Io chiamavo per dire che lei, da quando non lavora più con Berlusconi, la vedo un po' più critico verso i Cavalieri, che mi fa piacere, insomma, la sua verve ruspante le ha dato. Io non ho mai lavorato no, per conto di nessuno. Collaborato chi? Che cosa? Dio. Quando? Come? Perché? Scusi, vabbè, perché? Lavoro contro campo, ma che c'entra il calcio con la politica? Scusi. No, c'entra calcio, naturalmente. A livello politico. Cioè, io non ho collaborato. Prima con Berlusconi era tiero. Io sono una persona libera. Io sono una persona libera, capito o no? Se lo metta in testa. Se lo metta in testa, io sono una persona libera. Libera. Libera. Ma non lasci perdere prima, dopo. Io sono una persona libera, capito, sì o no? Ma se, a voi, e allora non mi rompa i coglioni su questo, ma ha capito? Lei i coglioni, Luciani, lei rompe i coglioni, sì, ha capito? Perché poi non insulti noi, insulti anche i politici, perché ogni tanto non insulti i politici? Perché sì, non si paura. Preoccupi, non si preoccupi. No, non io non mi preoccupo, sono tranquillo. Non si preoccupi, non è lei che si scalda per niente, solo perché non si dicono che adesso lei si incazza con Berlusconi. Ma io non mi cavolo con nessuno. No, non rompa i coglioni, rompe i coglioni, tu lo dici a qualcun altro. No, lo dico a lei, lo dico a lei che chiama. Se lei chiama, io lo dico. Se lo incontrassi, se lei chiama, infatti me lo dice, io me lo prendo. Se lo prende anche lei, se lo prende anche lei, che cosa? Esatto, se lo prende anche lei, se lo prende anche lei. Io sono una persona libera, capito, sì o no? Voglio, sì, liberissima, non credo, molto più libera, comunque, mi raccomando, molto più, molto credo, più libera dei suoi pregiudizi, guardi, comunque, ascolti, lei è molto più libera dei così. Suoi pregiudizi, ha capito? Lei non sono pregiudizi, lei sì, è pieno di pregiudizi, lei Berlusconi, queste stronzate qui, non sì. Sono stronzate, sì, lei è ruspante, sì, lei ruspante. Ma ruspante, ma ruspante sarà lei, ruspante, ruspante, no, ruspanti sono i polli, no, invece vede, come lei di Roma non sa che ruspante significa una persona viva, vivace, che sta nel sì, va bene, d'accordo. Vabbè. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa. Io non sopporto, caro Parenzo, forse mi sono arrabbiato anche troppo, non sopporto le persone che mettono in dubbio la mia onestà intellettuale, perché io posso preferire una persona o l'altra, aver votato, certo. Lo dico anche esplicitamente, io ho votato tot. Se mi dicono che cosa ha votato nel 94, io rispondo. Cosa ha votato nel 96, io rispondo. Non è che mi nascondo dietro, non ho votato, non mi piace la politica, no, io certo. ho quasi sempre scelto, quasi sempre, e lo dico apertamente, perché per me il voto non è un'appartenenza, non è un'etichetta, vale esattamente nel momento in cui io vado dentro l'urna, metto la scheda e basta. Dopo posso anche pensare di avere sbagliato un secondo dopo, cioè non ho qui sopra un timbro, non ce l'ho mai avuto, non né... hai una fede, certo, questo è per me la politica, giusto o sbagliato che sia. Per cui quelli che mi mettono le etichette mi danno un fastidio che li strangolerei. No, ma infatti guarda, ne stavo discutendo anche qui con Paolo. Chi è così. Paolo, scusa? Paolo è l'autista che sta riportandomi verso Roma, e l'autista, la notizia è che l'autista dell'autobus, l'autista dice, del pullman, no? Certo, sì. Pensavo che avesse un autista privato, perché no, eravamo al top per carità, già questo. Però la notizia è che siamo solo io e Paolo sul torpedone, cioè non c'è neanche un passeggero. Beh, ma noi siamo al fallimento, scusa, la compagnia può... è come, no, non ti può permette, dichiarare quindi... fallimento la compagnia dei torpedoni, così lo saluti, siamo solo, posso urlare tranquillamente. Beh, questo è meraviglioso. Solo nel torpedone posso urlare, già, per ora c'è la stazione. Beh, aspetta che ti passo un attimo, cominciare così glielo spiega lei come qua. Scusi, signor Paolo. Buonasera. Eccoci. Buonasera. Qui, buonasera. Scusi, ma com'è possibile? Come si chiama l'azienda di trasporto dei pullman da Siena a Roma? La Sena. La Sena, ma scusi, un solo passeggero, ma com'è possibile? Vabbè, aspetti, abbiamo ancora la fermata della stazione. Che fermata è? Della stazione di Siena, poi c'è Viale Toselli e poi c'è il casello. Abbiamo vabbè. Altre tre chance. Vabbè, ho capito, okay. Ma vi aspettate qualcosa o no? Sì, sì. Sì. Dalla stazione sì. Dalla okay. Stazione sì, va bene, grazie, grazie. Grazie, buonasera. Eccoci qui. Vabbè, dice che si aspettano altri passeggeri, per cui comunque... No, perché stasera la gente... Chi è che va a Roma di martedì sera a quest'ora? Dai, sono già tutti... Scusa, ma perché devi impedire a qualcuno di salire sull'autobus? No, ma sono già tutti con le loro amichette. Faccio un appello ai senesi che sono no! in collegamento. No, salite su quel torpedone! Non salite su quel torpedone! Appunto, lasciate appunto. Parenzo da solo, che tanto vi tormenterà ancora per tre quarti d'ora con le sue stronzate alla zanzara. Benissimo. Andiamo dove? Andiamo dove? Francesco da Prato, buonasera. Francesco buonasera da a Prato. Voi. Buonasera eccoci. A voi. Vada. Sento spesso dire da lei, a Parenzo, che quando ci sono degli interventi di esponenti politici e non, che qualcuno, Parenzo, liscia il pelo e altri no. Ma io ritengo che Parenzo lo sappiamo benissimo come è fatto, lo sappiamo benissimo, di ironia, che io sono, non condivido, ma sì. Lei, signor Cruciani, sì. Non meno di un'ora fa, ad un signore che ha chiamato criticando le trasmissioni di Del Debbio quando facevano le interviste, ho detto che aveva ragione, certo, del Debbio sì. Erano faziose. Come mai non gli ha detto? E le trasmissioni di Santoro come sono? Ma che c'entra? Anche lei, perché bisogna sempre aggiungere? Perché bisogna sempre aggiungere qualcosa? No, scusi, cioè perché uno no, deve perché dire... chi ascolta vorrebbe che lei... Ma che me ne frega a me delle trasmissioni di Santoro rispetto a quelle di Del Debbio? Ma di che stiamo parlando? Ma di cosa parliamo? Ma se lei delle dichiarazioni, lei risponde, giusto? Come mai a qualcuno risponde a tono e a qualcuno risponde... Supino e Chino. Ma Supino quindi e Chino sarà lei, sono... innanzitutto, perché io non sono né Supino guardi, né Chino. Io non sono l'avvocato difensore. Io non sono né Supino né Chino, lasci perdere. Io non sono l'avvocato. Forse è lei che ogni tanto si abbassa, io no. Né di Del Debbio né del signor Parenzo. Sì. Volevo ricondurre che siccome lei critica sempre Parenzo, ma io non critico nessuno. Dice il pelo e a qualcuno no, lei è peggio. Va bene, perché sono peggio. A chi grazie. Chiama e dice che Del Debbio è fazioso. Io gli risponderei, beh, anche dall'altra parte sono fatti benissimo certe trasmissioni. Gli ha risposto lei. Gli ha risposto lei. Adesso. Ecco, bravo, l'ha risposto lei. C'è Crosetto che scrive, Crosetto, deputato del PDL, ex sottosegretario alla difesa, oggi sono comparse come al solito tagliate per fare più scalpore alcune battute scambiate ieri ai microfoni della Zanzara che riguardano Claudio Scajola. Mi spiace se le mie parole hanno ferito lui e alcuni suoi amici. Io ho semplicemente detto che la vicenda della casa del Colosseo, fino a quando non sarà chiarita e spiegata, considererebbe a mio avviso che notoriamente nel PDL non ha valore di non candidarlo. Ora, come al solito, di fronte a dichiarazioni chiare, evidenti, si dice tagliate per fare più scalpore. Non ho mai paragonato, dice Crosetto, Batman a Scajola. Infatti noi non abbiamo mai scritto nei comunicati stampa che Batman era uguale o che Fiori o che Scajola era uguale a Batman. Ha detto nel PDL ci sono molte cose di cui vergognarsi e ha parlato del caso Scajola, ha parlato del caso Fiorito, ha parlato del caso Minetti, insomma, di questo si sta parlando. Io la combatto. Eccoci qui, Samuele da Cagliari, 800 24 00 24. La Zanzara continua e combatte insieme a voi. Samuele? Non c'è. Marco da Roma. Marco? Ragazzi. Pronto? Marco? Pronto? Sì, dica. Crucia? Sì. Stavamo sentendo un po' i vostri commenti sulla scelta di Berlusconi, di rimoderare. Un attimo solo. Aia. Sì. Pronto? Sì. Chi è questo che stai chiamando? Adesso te ne accorgerai. Mi devo preoccupare? No. Segreteria telefonica. Allora Marco? No, mi sembra che si sia parlato di tutto e di niente, cioè l'unione dei moderati, ma i moderati chi sarebbero? Ma lei l'ha sentito Berlusconi? Serata? Le cazzate che ha detto Berlusconi oggi su chi sono i moderati? Lo vogliamo far risentire Berlusconi stamattina da Belpietro su chi sono i moderati, piccoli e grandi? Sentiamo. I moderati sono tutti coloro che non si riconoscono alla sinistra, per citare i nomi dei leader o dei piccoli leader che scenderanno in campo, dall'UDC a Italia Futura di Montezemolo, a Vittorio Sgarbi, a Tremonti, sino alla Lega. Ma di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Marco, concluda. Sono perfettamente d'accordo, ma dove stiamo a parlare? Si è sempre circondato dei peggio oltranzisti. Ferrara è contrario alla porta. Ma lasciamo i peggio oltranzisti, ma se Ferrara non è un oltranzista, su Marco, non diciamo. Ma come no? Ma ragazzi, ma Ferrara, ma ve lo ricordate? Vabbè, un oltranzista, avanti, un oltranzista. Vabbè. Se Ferrari, Ferrari voi, è un oltranzista. Ma voi, Giovanardi? Ho capito, ha fatto la legge sulla droga, manco sa cos'è una canna. Ma possibile? Ma di che stiamo a parlare? Cadini. Casini, ma ragazzi, abbiamo una delle peggiori legislature seconda attività assistita grazie anche a Casini. Sì, no, ma sono d'accordo. Sono d'accordo con lei, Marco. Peggiore o migliore, adesso lasciamo perdere, eccetera. Però sulla parola moderati bisognerebbe riflettere. E su chi si chiama moderato e su chi si autonomina moderato. Grazie. Marco da Roma, buonasera. Da Como, anzi, Marco da Como. Buonasera. Dica. Parlando di Renzi, volevo dire questa cosa. A me sembra un po' presuntuoso, perché ogni volta che gli fanno la domanda, ma c'è un sacco di gente del PDL che voterebbe per lei, lui ride e dice sì, la Zanicchi, la Minetti, come per snobbarle. E invece credo che la gente parta da questi umili voti per arrivare in alto. A me sembra molto presuntuosa questo modo di fare. Se hai sentito prima Scajola che lo voterebbe, se sentite la Santanchè che lo voterebbe, lui ride e dice sì. No, Scajola non ha detto che lo voterebbe, su, no, non dica stupidaggini, Marco. Qual è la presunzione qui? Qui non c'è nessuna presunzione. Renzi vuole essere votato anche da quelli che sono delusi del PDL. Qual è il problema? Qual è il problema? Li prende per il culo perché non vuole sembrare troppo vicino a certe posizioni, perché si vergogna anche di certi appoggi, non c'è dubbio. Io non darei mai soddisfazione a gente del PDL di poter andare liberamente a votare le primarie sapendo che poi non... Ma che vuol dire? Io la cosa che non capisco, che vuol dire la gente del PDL? Cioè, non è che uno ce l'ha, ma non ce l'hanno stampato in fronte. Non è che una categoria per sempre, ha capito o no? Scusi, io ho votato PDL un sacco di volte, 2-3 volte, eccetera. Ho votato anche il PD, eccetera. Certo, andrei a votare le primarie a Renzi, ma perché non è che c'ho scritto in fronte sono del PDL, ha capito o no? Un attimo. Ma non sarà mica quel personaggio squallido? Ma tanto non lo troviamo. Perché ha paura. No, segreteria che paura. Telefonica. Non risponde. Luca da Genova, buonasera. Ha paura, paura. Luca? Pronto? Buonasera, dica. Pronto, buonasera. Niente, io sono un elettore del PDL che ho votato PDL da un po' di richiama tempo. Richiama moglie. Dica. E niente, io l'ultima elezione amministrativa a Genova non ho votato il PDL proprio per la presenza di Scajola. Vabbè, pazienza, a lei non piace Scajola. Perché ce ne faremo una ragione. Lui è d'accordo con le preferenze, perché lui le preferenze ce l'ha sicuro, cioè. Vabbè, ma ai voti un sacco di gente che le preferenze ce l'hanno sicure. Bisogna vedere come hanno queste preferenze. Ho capito, però. Un potere. Sì, certo. Io per me è proprio il problema sono le preferenze. Anche per me il problema sono le preferenze, Luca. Però bisogna decidersi, cioè, perché le preferenze no. Lo so, e con le liste bloccate no. Che ha 24 anni prenderà un sacco di preferenze. Chi? Cioè, bisogna decidersi appunto se uno prende le preferenze perché è un bravo politico o perché ha fatto dei favori o ha avuto delle amicizie, appunto. Ha creato un giro di potere che dà... Però non è che qualsiasi giro di potere... No, ma lei ha ragione. Non è che il giro di potere però sia sempre un indizio di cose losche, poco... No, per carità, io non dico che sia sempre indizio di cose losche. Però mi sembra che si parli poco di politica e tanto di questo... Cioè, anche Fiorito ha preso 27.000 preferenze. Bisogna sapere come mai ha preso 27.000 preferenze. Il problema è quello lì, cioè, perché se poi quelle preferenze le pago io, a me sinceramente mi girano leggermente i coglioni, hai capito come la faccenda? No, ma ho capito benissimo, grazie Luca. Antonio da Roma, buonasera. Buonasera, volevo intervenire in parte anche sulla base di quello che è simile a quello che ha detto l'ascoltatore precedente, però in particolare volevo soffermarmi su questo. Il signor Scajola fa questo intervento, prenderà pure i voti, come è stato detto, perché chiaramente il suo giro di legame, ma cioè mi ricordano un po', insomma non vorrei sembrare molto in contro, io sono un moderato, uno che l'ha votato, mi ricordano un po' i gerarchi della Repubblica Sociale che litigavano per i posti quando ormai c'erano tutte le macerie attorno, ma loro stanno in contatto con la gente o solo tra loro con i loro amici? Lo so, questo è il fatto. Poi vedremo se davvero sono così staccati. Ma l'Italia è un paese di centrodestra, di moderati, se dovesse vincere la sinistra sarà proprio per colpa loro. Non per colpa di altri, in fondo il moderato che cosa vuole? Vuole lavorare, produrre. Ma per me non esiste questa cosa, la categoria del moderato, parliamo? I moderati. Sono moderati, fagli sentire come diceva Borghese, sono moderati. Moderati. Dillo, che diceva? Siamo moderati? No, ci sono moderati. Moderati un cazzo! Sono Lega! Grazie Antonio, Donato da Bari, buonasera. No, qui dramma Parenzo intanto. Che è successo? Che è successo? Sono due persone sul torpedone. E vabbè, ma due brave, due bravissime persone. Ho capito, ma non è che ti puoi, non è che uno può immaginare che... Forse. Ah no, aspetta, uno è parente di Donato Bilancio, il serial killer. Ecco addirittura. Qua. Lei è parente di Donato Bilancio, giusto? Sì. Sei un ragazzo simpatico, paese, il paese reale. Qui incontriamo il paese reale. Quello a cui tu non dai spazio... Pronto? Sì, ho capito benissimo. Facendo parlare boiardi di Stato, facendo parlare i soliti ruffiani del potere. Sì, allora dai la, parola, invece... dai la parola al parente di Donato Bilancia. Vabbè, su. Adesso lei si chiama? Andrea, ti passo Andrea che è uno dei no, più grandi. No, ma fagli, fagli due domande sul governo no. Monti. Su, allora, la, la, Andrea no. Intanto sta mangiandosi un panino sul pullman. Sì, che con fa la di mestiere? E il forma... No. Con la coppa e il pane, questo è il paese, non è gente come te il che panino va col ai ristoranti. Pane. Il panino è col pane, su questo no, non c'è ha dubbio. Comprato del ha comprato della coppa al supermercato, poi un panino, la coppa, una è una cosa pesantissima la coppa. E si sta mangiando questo panino, no, perché non è, è gente normale, non è gente come te che bevi champagne, formaggi. Ma io no, lo champagne non lo normale. Bevo, i formaggi non li mangio, che dici, sei tu che bevi champagne e mangi formaggi? Allora, volevo capire da lei... questa nuova questo nuovo passo indietro di Berlusconi che ha detto che non si candiderà. Lei che dice sul torpedone Siena-Roma? Eh? Che dice? Ride. Che dico? Speriamo. Speriamo, speriamo ha detto, che cioè, cosa? Ma cerca di interpretare questo speriamo. Speriamo che si candidi che o speriamo che... Io di no. Di no. Di no. Speriamo mentre di no. L'altro, sì. L'altro avventore del torpedone, il signor... Salvatore è uno dei grandi intellettuali del Siena Roma, un intellettuale, certo. Dice che speriamo, speriamo che si candidi. Perché? Sto scherzando. Perché tu sei di sinistra? Sì. Molto di sinistra. Perché ho la barba incolta. Barba incolta. No, non sopporta Berlusconi, lo dica, non sopporto Berlusconni, lo fai io dire. Sopporto, la mia chiesa, lei è un giornalista, se si è fatto la domanda anche lui. Beh, certo, giustamente, ma chiedili se... se, se hai rovinato se, la carriera. Chiedili se, se vuole che Berlusconi si ricandidi sì o no, su... Ah, ecco qua, aspetta, c'è, non c'è nessuno qui, andiamo avanti, va finito, no? Andiamo avanti, sì, fino al casello. Basta, siamo solo in tre a bordo. Meraviglia. Va bene. Intanto qualcuno ci avverte che nel mese di settembre, caro Parenzo, nel mese di settembre Scajola è assente alla Camera nel 64% delle votazioni. Il 64% settembre. Aia. E poi verificheremo gli altri mesi. Mi sembra di capire settembre. Verifichiamo tutto, verifichiamo tutto, verifichiamo. C'hai le carte, c'hai. Ciao, io esco, dove vai? Vado a prendere la Pravda. Francesco, provincia di Lecco. Eccoci qua, Francesco. Allora? Carissimo Cruciani. Sì, buonasera. Sì. Vada, vada. Un attimo, un attimo. E sempre quel coniglio? Resti lì. Saia! Pronto? Signor Saia, Gaetano Saia? Sì, sì, sì, sì, buonasera. Il condannato in primo grado? Il condannato? Il condannato? Sì, faccio una festa, sono orgoglioso di essere stato condannato. Ma scusi, 11 mesi di reclusione per apologia di fascismo? Il condannato! Zitto. Ah, senta, gli dica di stare zitto, però sono i telescoltatori non sentono niente. Guardi, tu a me non mi dici più niente, condannato! Ehi, ora faccio la festa e ti invito, De Vicente. Allora Saia, scusi, stia calmo. De Vicente, faccio la festa e ti invito, De Vicente. Ma che festa deve fare, Saia, scusi. Sono orgoglioso che mi hanno condannato. Ma mica mi hanno condannato per pedofilia, perché ho rubato, perché dicono che sono fascista. Eh sì, sono fascista, e allora? Me ne vanno. Ma ci sono... Sono fascista, me ne vanno. Un coglione sei. Scusi un attimo, Saia, ma le divise, gli slogan fascisti, lei dice io sono fascista e me ne vanto, sì. E però se becca 11 mesi adesso. Dov'è il problema? Hanno condannato Almirante, Junio Valerio Borghese, e stiamo parlando dell'elite, del gova del fascismo, mica è un reato questo che condannano tutti, eh? Cioè condannano solo i fascisti veri, dice lei. I fascisti veri, questa è una medaglia che va puntata con onore, ma scherziamo, ma che per l'amor di Dio. Anzi, ringrazio questo giudice che mi ha condannato. Dunque non è che ha qualcosa da dire a questo giudice che l'ha condannato. Ma no, ma guardi, devo dire solo, Cruciani, che sì. Purtroppo quel giorno io non ero, avevo un bellissimo vestito, giacca, camicia, cravatta, sì. Avevo avevo un sigaro cubano che solo quello costava 30 euro e quindi il giudice ha visto male. Quel giorno io ero un comune cittadino per strada. Dove sta la divisa fascista? Vabbè, quindi... non è che lei non l'ha fatto sfoggio altre volte, altre volte. No, cose, noi stiamo parlando relativamente a quel giorno e quel giorno non c'è. Quindi voglio dire. Ho capito, ma lei stesso dice sono fascista e me ne vanto. Sono fascista e me ne vanto, ma quel giorno, in quell'occasione, io allora scusi Cruciani. Io avevo un'intervista con la BBC e con il Ma quale intervista, maniaco? Stai zitto, bene, Cruciani, parliamo. Paranoico, paranoico. Sì, paranoico, come te. Sei allora, aspetta un attimo, Parenzo, aspetta un secondo. Con dei giornalisti, suoi colleghi, che si parlava e mi fecero un'intervista. Quindi ero vestito normalmente, giacca, camicia e cravatta. Le foto lo possono dimostrare. Vabbè, adesso al di là della difesa. Questa è l'apologia, questa è una buffonata. Vabbè, comunque ha preso 11 mesi e sua moglie 5 mesi. Siamo fieri perché ci hanno detto che siamo fascisti, quindi è vero. Mica non siamo fascisti, dov'è il problema, Cruciani? Parenzo, vuoi dire qualcosa? Io oggi, io quando ho visto questa cosa ho goduto come un pazzo e ti verrò a trovare in galera. Hai goduto perché sei un maniaco represso. No, io ho goduto per il fatto che quando ti sbatteranno in gattabuia e tu andrai a farti la doccia... Quando ti sbattono davanti al plotone d'esecuzione, poi vediamo che minchia gli dici. Poi. Devi stare attento quando sarai in galera a raccogliere la saponetta quando cade per terra. Io sto in galera con onore, sto in galera perché sono fascista e me ne vanto. E allora no, perché tu dovresti stare in un ospedale psichiatrico. Aspetta, Saia, Parenzo, che vuoi dire? No, dico che non vedo l'ora di quando lui il primo giorno entrerà in carcere, andrà a farsi la doccia e gli cadrà per terra una saponetta e faranno tutti festa, amico mio, facciamo festa tutti! E ci sei tu che... Ma non, guarda, non voglio essere sconcio perché ci sono i teleascoltatori, non mi va di essere sconcio. Sei arrivato a capolinea. Andare in galera perché si è fascisti è un onore. Di certo non andiamo perché abbiamo rubato, perché siamo pedofili o roba del genere, quindi tutto... Ho capito, a parte che io l'ho già detto una volta che questi reati, se condannano Saia, che diciamo la verità, detto con tutto il rispetto, Saia, lei non è che non mi pare un pericolo per l'Italia. Allora, se condannano lei questo reato, evidentemente è ridicolo e su questo dovrebbero togliere questo reato, ognuno... Concordo con lei, è un po' come la diffamazione di Salvini. Questo mi preoccupa un po', adesso. Ho capito. Parenzo, che vuoi dire? No, io sono contento perché non è che un coglione qualunque può andare in giro a dire sono fascista, cioè una roba gravissima, quindi è stato condannato. Sono coglione, quando vi condanneranno anche a te come Sallusti per diffamazione, poi me lo dirai. Ma dove? No, ma reati d'opinione. Ma non è possibile, non capisci ho detto quello è il problema. Ma quando vogliono attaccare qualcuno usano questi mezzucci come con Sallusti, hanno usato la diffamazione come hanno usato la... Vabbè, adesso non si paragoni alla vicenda Sallusti. Io se non mi posso paragonare a Sallusti, lei è semplicemente un povero paranoico, addirittura ha bisogno di cure immediate. Lei ha scritto Parenzo, vaffanculo, vai, calma dai, allora aiuto, quanto godo quando ti vedo entrare in casa. Ma cosa vedi, una cosa, ma mettiti il dito in culo. No, calmi. Ti arresteranno per travestimento prima o poi. Ma che c'entra ancora questa storia del travestimento? Cruciani, si parla di cose serie e questo sempre fa il buffone, non fa mai parlare. Ho capito, questo dice che gode perché lei quando lei va in carcere. Ma cobra, che me ne può fregar di lei e la sua gentile signora, che bella coppia! Finalmente ci siamo, fuori dai coglioni, in galera, via. Grazie, Sai, a presto. Ciao. Allora, grazie. Buone cose, buonasera. Ambrogio da Lecco. Buone cose, un cazzo, cretino. Ambrogio da Lecco. Mamma mia. Pronto, buonasera, Cruciani. Salve. Dica. Volevo fare una considerazione sulle primarie di Renzi. Dica. Volevo chiedere cosa ne pensa lei sul fatto che se Renzi perdesse le primarie vuole rimanere all'interno del partito e non fondare un suo partito vero e proprio. Beh, mi pare sembra come un controsenso, perché perché l'idea del rottamatore, poi se perde le primarie non vuole rottamare niente e rimane dentro nel partito. Scusi, caro Ambrogio, caro signor Ambrogio da Lecco, ora quelli che partecipano per esempio alle primarie del Partito Democratico Repubblicano degli Stati Uniti, non è che dopo aver perso le primarie se ne vanno portandosi dietro tutta la baracca o i loro elettori, restano le partite e magari ci riprovano quattro anni dopo. Così è successo anche per il signor Romney, per esempio. Il signor Romney, candidato in America, ha perso varie volte, ha partecipato diverse volte alle primarie del Partito Repubblicano, ha perso e dopo si è ricandidato. Qual è il problema? Perché uno deve sempre rompere, dividere? Poi un'altra è altra cosa è l'analisi su quello che Renzi può fare se uscisse dal PDL, questo è un altro discorso. Ma la cosa fondamentale è che non si può sempre pensare alla divisione, no? Cioè uno deve anche rimanere all'interno di un partito e fare la sua battaglia per ottenere la maggioranza di quel partito attraverso gli elettori. Fabio D'Asti, no. Buonasera Fabio. Ambrogio, sì, dica però se vuole concludere. Ambrogio. No, niente, io non la penso così, perché penso che se si propone come rottamatore deve avere anche il coraggio, dato che sarei anche intenzionato io a votarlo, però se si proponesse come rottamatore dovrebbe avere secondo me anche il coraggio eventualmente di non restare con chi poi vuole rottamare, quindi se parti con l'idea che vuoi rottamare dopo non rimani nel partito con gente a cui non credi. Vabbè, ma quello fa il sindaco di Firenze, resta là e farà una battaglia per quando si presenterà un'altra occasione, questa è una cosa normale. Poi se uno decide di uscire ci spieghi qual è, se sarà il caso, qual è il suo progetto, ci spiegherà qual è il suo progetto. Fabio, buonasera. Fabio, dica. Pronto? Dica. Sì, volevo fare a lei, al dottor Parenzo, una considerazione sulla candidatura di Renzi. Sì. Io che considero Renzi anche una persona preparata, anche un bravo ragazzo, temo però che sia la sua candidatura e peggio ancora se diventasse Premier un gravissimo danno per l'Italia. Intanto perché... danno per l'Italia addirittura, sì, che è successo? No, ma direi anche gravissimo, intanto perché non ha neanche l'appoggio totale politico della sua corrente politica, primo. Quindi già ci sono dei problemi all'interno. Ma a che sostenere... significa non ha l'appoggio della sua corrente politica? Quale sarebbe? Basta sentire Bersani, basta sentire D'Alema. Ma che c'entra? Quello si candida contro Bersani, certo che non ha l'appoggio di Bersani, scusi, è di D'Alema. È chiaro, però poi in Parlamento bisogna avere la maggioranza e al Senato pure. Quindi lui non ce l'avrebbe all'interno del suo politico, del suo partito. Fabio, ma lei non ha chiare le cose. Cioè, lui si sta presentando alle primarie del centrosinistra. Se vince queste primarie sarà il candidato leader di una coalizione che non si sa bene come poi sarà formata. Punto e basta. Cioè, di che parliamo? Esatto, quindi io penso che se lui vincerà le primarie sarà il potenziale candidato premier. No, sarà il candidato premier. Se vince sarà il candidato premier, quindi allora? Molto probabilmente sì. Vincerà la sinistra. Ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Ma diciamo probabilmente, allora? Probabilmente vincesse la sinistra sarebbe un gravissimo danno. E perché sarebbe un gravissimo danno? Scusi. Non avrebbe appoggio all'interno del suo partito, tantomeno all'esterno. Vabbè, ma del mi suo sembra partito. Che stiamo, Parenzo, mi sembra che stiamo alla follia, eh? Gennaro da Caserta si è collegato con noi. Gennaro, dica. Ma no, io volevo fare una domanda molto importante. Sì. Ed è importantissima, bisogna che rispondete però. A Parenzo, basta, ma l'ha pagato il biglietto? Va sempre a scrocco, entra nei bar e non paga. Ma certo che l'ha pagato, il biglietto. Ma chi l'ha detto che non ha pagato? Dice che appartiene a Radio 24 e non paga le colazioni. Dice che magari va ai salumieri e compra il formaggio. Cretino, tu sei uno scroccone. Ti passo l'autista che ti dice che ho pagato. Sì, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno. No, no, non paga, la radio autista che qui sta. Perché lavora a Radio 24, perché lavora in la 7, non paga mai. Io ho sempre pagato tutto, lasciami il numero di questo colocquerello. Lasciami il numero di questo colocquerello, mi rifaccio la casa nuova, lasciami il numero di questo. La casa nuova. La casa nuova è un diffamatore di professione. Sono un povero camionista senza manco. Sei un diffamatore di professione, sei vergogna, sei un diffamatore di professione. Ti passo Paolo che ti dice che ho pagato il biglietto, cretino. Ti solo la testa di fronte al muro. Vergognati, cretino, vergognati. Diffamatore cretino, che ho sempre pagato tutto io. Ti passo Cruciani, ti passo qua, ti passo la Baffè. Vabbè, appartiene a Radio 24, lo facciamo pagare. Poi magari la gente come me va nei bar. Ho sempre pagato tutto, vergognati di quello che dici, diffamatore di professione. Un po' sempre, non è vero, un altro trasportatore di menzogne. La cassa dei giornalisti, alla cassa dei politici, ma la ristorante non cazzo, autotrasporti sono menzogne. Il tuo camion è la sai lunga, la sai lunga. Grazie Gennaro, basta, basta. Voi non pagate manco ai preti quando vi dicono le messe. Ma che lo ringrazi, ma grazie un cazzo. Oh, ma che dice questo? Si permette di dire che io non pago quando ti scrivo a suo Paolo, te lo dice lui. Prego, glielo dica perché sennò qui. Prego. Ha pagato il biglietto Parenzo Paolo? Prego, prego. Sì, ho pagato regolarmente. Quanto costa il biglietto da Siena a Roma? Il biglietto costa 23 euro. 23 euro, ha capito Gennaro? Non dica stupidaggini, su. Ha fatto pressione, ha fatto condizionamenti. perché è il giornalista di Radio 24, di La 7, dica se ha pagato, dica, sicuramente avrà detto così. Sicuro. C'è stata una pressione sull'autista, una pressione sull'autista sicuro. Uomo di menzogne, autotrasportatore di menzogne, zitto, autotrasportatore di menzogne. Non offendere gli autotrasportatori che lavorano. Ma non tutti, lui che trasporta menzogne, è un camion carico di menzogne quello. Giorgio da Genova, buonasera. Ma che Giorgio, buonasera, ma guarda. Sì, dica. Pronto, buonasera. Mi scusi, ma stavo mangiando perché aspettavo già da un po' al telefono. Ma lei ha il viva voce però, ha il viva voce lei, ha il viva voce. Un attimo solo, è con noi Simona Marchini, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, un fiore. Senta, bene. Ma lei che ci faceva nella così? Non sapevo niente, ma sono ignorante. L'altro giorno all'assemblea del Partito Democratico, cara Simona. Beh, io partecipo, faccio parte, quindi voglio sapere che succede. Naturalmente. Ma che ruolo ha nel Partito Democratico lei? No, nessun ruolo, però faccio parte di questa specie di assemblea sì. Nazionale, generale, e quindi... Cioè lei fa parte dell'assemblea nazionale? Sì, sono sì. Cooptata dentro, chi l'ha scelta, signora Marchini? Nessuno mi ha scelto, qualcuno, ma non mi ricordo neanche chi mi ha chiesto qualche anno fa se volevo esserci, ho detto sì. Sì, dunque fa parte dell'assemblea a sua insaputa quasi, fa parte dell'assemblea. Ma no, semplicemente non riesco ad andare sempre, però quando posso vado molto volentieri per capire, sentire, ascoltare, certo. Farmi un'idea. Parenzo, ti ricordi Simona Marchini? Sì, naturalmente. Ma come no? Ma certo. Che ne so, magari sei così preso dalle tue cose lì nel... Ma poi siete giovinetti, no? Ma come no? Ma io quelli della notte mi ricordo come se fosse adesso, altro che giovinetti. Io c'ho uno dei miei, io lo ho 46 anni, Simona Marchini, altro che giovinetto, ormai sono decrepito. Mi ricordo i grandissimi gag anche con l'arabo, Andy Luotto. Ma siamo alla storia della televisione. Allora, io voglio capire, il suo giudizio su Renzi mi sembra che non sia proprio morbido, cara Marchini. Qual è il suo giudizio, signor Renzi? No, non mi piace molto Renzi, perché, ma non da oggi, No. È un'idea che mi sono fatta già da quando è andata a cena ad Arcore, quella per me è stata proprio indelebile. Una macchia indelebile. Sì. Cioè, troppo berlusconiano, insomma, no? Ma gli piace troppo, un esibizionista lui, ma non vedi che campagna sta facendo, pare un americano di casa nostra, Vabbè, camper, con le cose, a me fa ridere, e poi dice di appartenere al PD, ma nei suoi manifesti non c'è mai il simbolo del PD, non c'è. E lo so, come però un signore che fa tutto per conto suo. Dunque, secondo lei non appartiene al PD in realtà, cioè, sì. Ma credo che nel profondo del cuore no, non somiglia troppo a all'idea che uno più o meno si è fatto nella vita e negli anni di un'appartenenza, no? Lei voterà per Bersani, mi sembra di capire, no? Sì, sicuramente. Sicuramente sì. Per Bersani, hai capito? No, l'altra volta ho votato per Ignazio Marino perché lo stimo molto. Sì. E lo conosco molto bene. Questa volta trovo che bisogna essere, anche Marino ha detto che voterà Bersani sì. Dire che sì. Mi pare giusto che siamo un tantino più compatti una volta tanto. Ma lui vuole rottamare, dice. Capire perché buona parte del mondo dello spettacolo e della cultura è giustamente di sinistra. Ma giustamente lo dici tu, Parenzo, giustamente. Come? Giustamente lo dici tu. Lo dici tu, giustamente. È una domanda, diciamo, no? Signor Marchini, perché molti dello spettacolo sono di sinistra? No, molti, quasi tutti, tranne Lando Buzzanca e pochi altri, forse. Ma sì, sono 3 o 4, insomma, i paladini del... Cioè, sono 4 gatti, dice lei, no? No, vabbè. ma non è casuale, perché evidentemente laddove c'è voglia, non sempre dico, però dove c'è voglia di cultura, d'apertura mentale, di, cioè sono ignoranti dall'altra parte, sono ignoranti, mi dica la verità. Posso citare, non so, Casa Pound, oppure non so che ci vogliamo, cioè dall'altra parte o sono ignoranti o sono violenti, dice. Ma no, non lo dica apertamente, lo dica. Sono così stupida, guardi, c'è un solo signore di AN, allora, che io ho stimato moltissimo, ed era Fisichella, che infatti si è passato da questa oscenità, da queste alleanze veramente indegne, e l'ho molto stimato perché... Ma lei l'ha vista la signora Minetti che sfila sulla passerella, cara Simona Marchini? Complimenti alla Minetti. Quella non farà vendere manco un costume a quel poveraccio. Ma lei dice... Le donne non si identificano col modello Minetti. La Iervolino ha detto che Renzi è un cialtrone, eh? Accidenti. No, ma io non voglio essere così violento. Io sono molto... in fondo molto compassionevole, molto umana. Io trovo che come umana lei, ognuno, ma non c'è dubbio, ognuno esprime quello che è e quello che, insomma, può. Non bisogna giudicare aspramente. Lei dice come Berlusconi, insomma, andiamo al sodo, no? Non è che quel tipo, insomma, se non altro la sua campagna, sì, evidentemente firmata Gori, quindi c'è una con, certo, uno stile, no? Con uno, sì, stile. Sì. La sua campagna mi ricorda troppo certe modalità. Certe modalità. Purtroppo dobbiamo chiudere, perché poi si sente malissimo, un suono disturbato, ma la richiameremo questa settimana, perché vogliamo tirare fuori la Simona Marchini che è in lei. A presto, ciao, domani 18:30 la Zanzara. Meno male che la Zanzara c'è. Siete forti, siete zanzare africane, quelle proprio. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti saluto, Cruciale, alla prossima, dai.